Letture di Radio 24. A 100 anni dalla morte a Vicenza si inaugura in questi giorni l'anno di Antonio Fogazzaro. Le celebrazioni si sono aperte con una presentazione degli scritti inediti di uno dei più grandi scrittori dell'Ottocento e del Novecento. Presentiamo di seguito uno degli scritti che Fogazzaro dedicò all'amato Lago di Como, fonte di ispirazione di molte sue opere. Suona mezzogiorno ad Albogasio. Non vi è una nuvola, non vi è un fiato d'aria, non vi è altra voce che delle campane. Il lago pare di cristallo. Ma pure, sul soffitto di questa loggetta piena di luce, il raggio di sole specchiato dall'acqua si muove, ondula lentamente. Le finestre sono aperte, fa caldo. Quanti anni che non passo il novembre qui, posso quasi sognare, per un momento, che sono ancora un fanciullo, come quando scrivevo La campana del mezzogiorno. Stupido vecchio cuore che sogna ancora, pareva morto un momento fa. È entrato dal giardinetto un leggero odore di olea fragrance. Mi ha mosso dietro tante cose. Eccomi qua, tutto tremante, con la penna in mano e... devo scriverlo, con le lacrime agli occhi. Ero venuto qua per un po' di pace, per quel raccoglimento a cui si dovrebbe pensare sempre quando gli anni e la natura e le voci occulte dell'anima ci avvertono che il nostro tempo di prova è per finire. È bene allora di fermarsi un poco sul sentiero, di guardare nella vita passata se vi abbiamo lasciato indietro qualche cosa buona che si possa riprendere, di guardare nel nostro cuore, se ci sono ancora sentimenti che sia bene di deporre, prima di andare, umilmente, silenziosamente, incontro al mistero. Quanti mi hanno lodato come un conoscitore profondo del cuore umano, e conosco tanto poco il mio. Le montagne e il lago non mi parlavano i primi giorni del mio ritorno, perché forse non mi avevano riconosciuto. Ma poi, dovevo ben prevedere che sarebbe successo così. Tutto questo paese era pieno della mia giovinezza. Ogni onda ne ha un riso, ogni pianta ne ha un verde, ogni sasso ne ha una scintilla. E ora la giovinezza ritorna a me. Il sangue mi corre ardente, impetuoso. Ha riaperto tutte le vecchie ferite. Avete ascoltato la lettura dello scritto di Antonio Fogazzaro, Piango per il mio lago, pubblicato da Libero di martedì 8 marzo. Letture di Radio 24. La memoria dell'uomo si affida sempre di più al web e gradualmente si perde la capacità di ricordare. Arriva quindi il momento di trovare una mediazione tra lo sforzo umano e l'archiviazione digitale per non rimanere a bocca aperta di fronte a ogni domanda. Stiamo delocalizzando la memoria, proprio come facciamo con l'economia. Perché ormai le nostre fabbriche del ricordo sono altrove, sempre più lontane dal nostro corpo, a San Francisco o a Bangalore, ma in compenso immediatamente accessibili e consultabili 24 ore su 24. Basta un clic e ci troviamo gettati in un archivio infinito, in una biblioteca di Alessandria digitale dove c'è di tutto, ma non tutto. E ricordare, nell'era pre-Google, voleva dire rimettersi qualcosa nel cuore, tenerlo a mente, e dunque metabolizzare la realtà archiviando quel che sembrava importante, degno di essere conservato nelle teche della storia individuale e collettiva. Noi invece, proprio perché siamo alle prese con un oceano di informazioni, di dati, di conoscenze, di curiosità, impossibili da padroneggiare e da tenere sotto controllo, abbiamo costruito strumenti che lo fanno al nostro posto. In fondo Google e Wikipedia sono diventati la memoria collettiva di un mondo senza collettività. Ciascuno vi accede individualmente e ciascuno contribuisce personalmente alla crescita di questi giganteschi stock di saperi, di nozioni, di notizie, che sono e saranno sempre di più la nostra memoria remota, gli hard disk dell'umanità interinale, quella che ha il ricordo liquido e leggero. Stiamo diventando tutti dei surfisti della memoria. Planiamo da un'info all'altra. Scivoliamo sulle onde del web, cercando di restare in equilibrio tra il bisogno di acquisire aggiornamenti sempre maggiori e il pericolo di annegare in quel mare magnum. Tutto questo rende la memoria sempre più superficiale, occasionale, a breve termine. Uno zapping continuo tra un ricordino e l'altro, incentivato dagli smartphone, dal wifi, dagli abbonamenti flat. Se la memoria, come diceva Cicerone, è la custode di ogni conoscenza, allora siamo decisamente entrati nell'epoca della conoscenza on demand. Ma quando si hanno a disposizione tanti giga di informazione su tutto e il contrario di tutto, la questione vera si sposta sul piano dei criteri e dei valori. Che cosa vale la pena di tenere a mente? Di mettere nel proprio teatro della memoria quel che ci mettevamo fino a poco tempo fa? Per esempio le tabelline, il teorema di Pitagora, il 5 maggio, i 10 comandamenti, la data di Waterloo, le capitali del mondo, le declinazioni latine, i numeri telefonici, tutti esercizi mnemonici su cui si era già abbattuto il diktat dell'antinozionismo. E adesso sono arrivati i new media a dare il colpo di grazia. Bisognerà dunque trovare un compromesso tra lo sforzo personale e la commodity digitale, perché se serve a poco limitarsi a ripetere nozioni come pappagalli, è molto peggio non averne più nessuna e restare a bocca aperta davanti a qualsiasi domanda, come anatre mute, palmipedi con palmare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Un mondo senza memoria, ma i surfisti del web possono salvare i pensieri perduti, di Marino Niola, dalla Repubblica, di lunedì 7 marzo. Secondo uno studio svolto negli Stati Uniti, l'uso del computer nelle ore serali ha sorpassato quello della televisione. 6 persone su 10 nell'ora precedente il sonno navigano su internet, scrivono nelle chat e mandano mail. Questa abitudine comporta qualche problema nelle ore diurne. La buonanotte ora arriva da internet. 6 americani su 10 scivolano verso il sonno accompagnati da un computer. Lo usano soprattutto per scambiarsi mail o parlare in chat, a conferma del ruolo di grande antidoto alla solitudine che la rete ricopre. Ma in un caso su 5, il computer nella stanza da letto viene usato anche per lavorare. Lo studio, appena concluso dalla National Sleep Foundation americana, è stato pensato per analizzare i problemi di sonno di una popolazione troppo abituata a colonizzare il tempo notturno e a mantenere ritmi alti a suon di caffeina. Ma ha finito col gettare anche luce sulle abitudini di una nazione che fa fatica a spegnere gli interruttori, a qualunque ora del giorno e della notte. Lo studio sull'impatto delle nuove tecnologie sulla qualità del sonno rivela che il 95% degli americani usa almeno un apparecchio elettronico nell'ultima ora trascorsa da svegli. Se la televisione continua a fare la parte del leone nella stanza da letto degli over 45 e va più o meno di pari passo con il computer nella fascia tra i 30 e i 45 anni, fra gli under 30 il sorpasso di internet nei confronti del film serale è ormai consumato. Nella ricerca di contatti con gli amici della rete è un fenomeno solo notturno. Un paio di anni fa, infatti, ad agosto del 2009, il colosso delle telecomunicazioni americano, Verizon, aveva notato un boom di contatti, soprattutto su Facebook, a partire dalle 7 del mattino. Collegarsi alla rete è dunque la prima e l'ultima attività delle nostre giornate. Il rapporto della National Sleep Foundation spiega che nella fascia d'età tra i 46 e i 64 anni la televisione è accesa la sera, tutti i giorni, nel 67% delle stanze da letto. Ma meno di un under 20 su 2 ha ereditato l'abitudine dei genitori. I ragazzi tra i 13 e i 18 anni navigano in rete tutte le sere prima di addormentarsi nel 55% dei casi. I social network la fanno da padroni. Si va dal 52% degli adolescenti fra i 13 e i 18 fino al 9% dei baby boomers. Contemporaneamente, il telefonino continua a mandare e ricevere messaggi e l'iPod o altri tipi di lettori audio accompagnano la serata con la sua musica. Nemici giurati del sonno sono poi i videogiochi, che oltre ad appassionare la fascia d'età più giovane, hanno fatto breccia anche tra i baby boomers al 12%. L'ascesa dell'elettronica tra le nuove generazioni coincide con il declino di libri o giornali. Si addormentano sfogliando pagine il 23% dei baby boomers e il 16% degli under 30. Né la carta è stata ancora rimpiazzata dagli e-book. Solo il 2% del campione intervistato ha riferito di farne un uso regolare. Le conclusioni che la National Sleep Foundation trae dalla sua analisi sono preoccupanti, soprattutto per la qualità del sonno degli americani. Il 60% degli intervistati ha riferito di svegliarsi regolarmente poco riposato e il 6% degli adolescenti dorme addirittura meno di 6 ore. L'esposizione alla luce artificiale dopo il tramonto, spiega Charles Zeisler della Harvard Medical School, uno dei coordinatori della ricerca, sopprime la produzione di melatonina, mantiene alto il livello di allerta e sposta verso ore più tarde tutti i ritmi circadiani dell'organismo, rendendo sempre più difficile l'abbandonarsi a un buon sonno riposante. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Niente TV, ora è internet, a darci la buonanotte. Di Elena Dusi, dalla Repubblica di martedì 8 marzo.